Letture di Radio 24. Rebia Kader è una donna cinese di etnia uigura che da molti anni si batte per rivendicare i diritti del suo popolo perseguitato da Pechino. Ascoltiamo un passaggio della sua autobiografia nel quale Rebia rievoca un episodio legato al ritratto di Mao. Mao temeva che il suo potere sparisse, perciò, volendo infondere nuovo entusiasmo da parte del popolo nei confronti del comunismo, il 18 agosto 1966 radunò oltre 1 milione di giovani sulla piazza Tiananmen a Pechino. Le guardie rosse inneggiarono in coro all'amatissimo presidente e giurarono di distruggere la vecchia ideologia dello sfruttamento, la cultura del passato, i vecchi usi e costumi. Da quel momento in poi, l'obiettivo del governo non era più la costruzione di una nazione, bensì la caccia alle streghe nei confronti dei presunti nemici politici. Lo scopo della grande rivoluzione culturale del proletariato era l'affermazione di una nuova classe di burocrati, ragion per cui doveva essere annientata qualsiasi forma di autorità ereditata dal passato. Incitati a farlo, quei giovani, che avevano una fascia rossa al braccio come segno di riconoscimento, tentarono di distruggere tutto quello che ricordava, anche solo vagamente, la tradizione cinese. Nessuno era al sicuro da quelle canaglie scatenate, neppure i funzionari del partito. Scuole e università sospesero l'attività di insegnamento, gli studenti torturarono gli insegnanti. Nel Turkestan orientale, gli Uiguri furono le vittime prescelte delle guardie rosse cinesi. Ogni muro e ogni siepe vennero tappezzati di manifesti che facevano i nomi di singoli cittadini. Gli appelli alla lotta di Mao, al grido di «una volta distrutto tutto, la ricostruzione viene da sé», fecero sì che chiunque fosse trasformato in un nemico da combattere. Poco dopo l'inizio della rivoluzione culturale, mio marito portò a casa un ritratto del grande timoniere che io arrotolai e misi dietro il letto. Le guardie rosse non tardarono molto a perquisire le case. Giunte da noi, lanciarono un urlo di vero orrore nel ripescare il ritratto. Per punizione, mi fecero comparire di fronte a un'assemblea giudicante nella sede del centro di formazione del partito che sorgeva in ogni villaggio. Mi avevano inserito nella lista nera, che comprendeva tutti i controrivoluzionari. Ma ebbi fortuna. Anche se mi spintonarono e mi trascinarono per le mani e le braccia, sputandomi e dicendomi ogni sorta di offese, non mi bastonarono. La gente del villaggio mi protesse, dichiarando che ero una semplice mamma e avrebbero provveduto loro alla mia rieducazione. Mi obbligarono a restare in piedi su una sedia sopra un palco affinché la massa dei presenti potesse guardarmi meglio. In preda all'eccitazione, il capo delle guardie passava da un accusato all'altro, definendo ognuno sfruttatore capitalista e assestandogli un bel calcio dietro le ginocchia. Conoscevo bene quell'uomo, compravo sempre la frutta nel suo negozio. Aveva circa 50 anni e aveva cucito sulla camicia circa 20 piccoli ritratti di Mao. «Non hai rispetto per il nostro stimato Mao, non hai attaccato i suoi ritratti», tuonò il fruttivendolo serrando i pugni. «Lo sai chi ti ha dato il pane che mangi e i vestiti che indossi? Non è stato forse Mao?» E alzò le braccia al cielo, cominciando a pronunciare ogni sorta di maledizione. «Ti dovremmo bastonare fino a che non svieni e poi uccidere!» I miei vicini, che lo applaudivano da sotto il palco e urlavano accuse contro di me, sapevano chi fossi. Nessuno di loro aveva veramente intenzione di alzare le mani contro di me, tantomeno uccidermi. Una donna mi si avvicinò e mi strillò. «Deve portare il ritratto! È importante!» E quando fu ancora più prossima mi bisbigliò. «Si attacchi queste immagini, altrimenti la uccideranno!» Con una spilla mi attaccò un ritratto di Mao sulla camicia. Il cuore mi martellava nel petto e di fronte a quella massa furiosa ero nella più completa confusione. Ma sul palco individuai anche alcuni amici, tra cui stimati anziani, scienziati e insegnanti, e così lo smarrimento svanì. Nella maggior parte dei casi, l'accusa principale era possedere conoscenza, ricchezza o influenza. Nelle successive assemblee mi sarei ogni volta vergognata perché dal momento che il palco era destinato a quanti avevano un po' di ingegno e che erano ancora in grado di distinguere tra il bene e il male, ero obbligata a prendere posto tra gli attivisti. In basso, invece, si trovava il popolo, che era ormai privo di qualsiasi autocontrollo. Una volta a casa, alla fine dell'assemblea, mi abbandonai esausta sul letto e staccai l'immagine di Mao dalla mia camicia. La punizione per aver nascosto il ritratto di Mao dietro il letto era presentarsi per 50 giorni di seguito. Le prime volte le guardie rosse non si accorsero che non portavo di nuovo la spilla con il ritratto. Al quarto o quinto giorno, però, uno degli attivisti urlò indignato: «Non porta il ritratto di Mao!» Il capo chino, le braccia al cielo, nella cosiddetta posizione dell'aereo, mi piombarono subito addosso altre 10 persone. Sotto di noi, un centinaio di attivisti urlava a squarciagola. Ma in un attimo, altri 50 accusati erano sul podio accanto a me. Prima che uno dei comunisti elencasse le nostre colpe, quanti sedevano più in basso vennero invitati a gridare: «Lunga vita a Mao! Lunga vita al Partito Comunista!» Dopodiché si disse: «A morte Rebiglia! Deve sparire dalla faccia della terra!» Il pubblico fu esortato a gioire. Ero china su me stessa da 5 minuti, quando un giovane attivista mi si avvicinò a grandi passi. «Sono il figlio di Chalidem», mi bisbigliò. Sua madre era una nostra conoscente e non voleva che venissi trattata con durezza. Era un ragazzo sveglio e proclamò a gran voce: «Rebiglia non porta il ritratto di Mao perché non si considera abbastanza degna per farlo. Era una controrivoluzionaria, pertanto ha intenzione di portare il ritratto di Mao soltanto quando sarà diventata una vera attivista». Suo discorso ebbe una buona accoglienza e il figlio di Chalidem mi gridò: «Va pure a sederti. Finché non avrai cambiato la tua idea su Mao, non avrai il diritto di portarne il ritratto». Avete ascoltato la lettura di un passaggio dell'autobiografia di Rebiglia Kader, La guerriera gentile, una donna in lotta contro il regime cinese. Corbaccio Editore, 396 pagine, €22,60.